in primo piano. Buongiorno, veniamo alla lettura dei giornali di oggi, mercoledì 22 aprile. I giornali italiani questa mattina hanno delle aperture e dei titoli di prima pagina assai vari, evidentemente non c'era un tema così prevalente, così più rilevante degli altri ieri da poter uniformare un po' i grandi titoli dei principali quotidiani. Ad esempio la Repubblica apre su un tema di politica estera di ieri tarda sera, Medio Oriente, i leader da Obama, Netanyahu, Abu Mazen e Mubarak invitati alla Casa Bianca. Il Corriere della Sera fa una scelta diversa e invece titola su Berlusconi, 25 aprile ci sarò. Questo tema della partecipazione del Presidente del Consiglio alla festa della liberazione per la prima volta è un tema politico, diciamo, commentato e presentato in molte prime pagine dei quotidiani, assieme a un altro tema importante che è quello, diciamo, della crisi economica internazionale che continua, con le stime del Fondo Monetario che dice che la crisi ci costerà 4.000 miliardi. La Stampa infatti apre su questo tema, Fondo Monetario, crisi da 4.000 miliardi, il Sole 24 Ore, allarme per il credito, in Germania risale la fiducia ma il debito supera quello italiano. Il 25 aprile il tema invece di apertura dei due giornali che si chiamano il Secolo d'Italia, è un giornale di partito, Berlusconi, il 25 aprile di tutti, il Premier sarò alla celebrazione, non la lascio solo alla sinistra, il Secolo XIX, il 25 aprile ci sarò, è la festa di tutti, Berlusconi non lo lascio alla sinistra ma evita Milano, dopo l'invito di Franceschini. Altri titoli dei giornali di questa mattina, Libero ieri aveva detto siamo tutti razzisti, questa mattina lancia un altro titolo molto provocatorio, basta immigrati, vogliono farci sparare, Malta ci rifila i suoi clandestini nonostante la montagna di soldi che le abbiamo dato, l'Europa ci lascia soli, avanti così purtroppo non resta che il modello Zapatero, far fuoco sugli sbarchi. E poi ancora qualche altro titolo, il Riformista dedica invece l'apertura al referendum, anzi al finto referendum, questo è il titolo di apertura del Riformista, il 21 giugno è meglio andare al mare, l'ipocrisia al potere, c'è un commento del direttore Antonio Polito che poi vedremo, è finta la data che non porterà il quorum, è finto il sì del PDL e il sì del PD, è finto il quesito che viene da un'altra epoca, sono veri solo i soldi che costerà. L'Avvenire, l'apertura è completamente diversa dagli altri giornali, lotta al razzismo, sì alla risoluzione. Si tratta della conferenza di Ginevra sul razzismo, la conferenza dell'ONU tanto discussa in questi giorni. Approvato in anticipo il documento finale di Durban 2, il Vaticano deplora posizioni estremiste e offensive. Veniamo al tema della liberazione, della partecipazione di Silvio Berlusconi alla manifestazione, a una manifestazione, alla celebrazione del 25 aprile, per la prima volta da quando è Presidente del Consiglio. Ci sono svariate ipotesi sui giornali dove potrebbe andare Berlusconi a presenziare al 25 aprile. Chi ipotizza che possa andare a Onna, in un comune della provincia dell'Aquila dove c'è stato il terremoto, dove ci fu una strage nazista, c'è chi pensa addirittura ad una presenza a Milano, ma sarebbe altamente improbabile. Infine, sulla notizia principale, forse quella vera, ce la dà Libero con un titolo in prima pagina, con un pezzo in prima pagina di Renato Farina, che è un parlamentare del PDL, già noto come l'agente Betulla, e dice grazie America, finalmente il vero 25 aprile, Berlusconi andrà al cimitero militare di Nettuno, è il cimitero dove sono sepolti molti militari americani e la notizia è questa, fa bene Berlusconi ad andare a celebrare la liberazione e la resistenza, scrive Farina, ma bisognava scegliere bene il posto, l'ha fatto, Nettuno. Così saldiamo un debito di riconoscenza che saldare è impossibile. Non c'entra Bush, adesso c'è Obama. C'entra quel sacrificio, la bandiera, quel tipo di civiltà che non è solo hamburger e ketchup, ma è saper morire per gli altri. Prendersi piombo in corpo per gente che se ne dimenticherà subito. Beh, Berlusconi no, noi no. Su questo tema di Berlusconi e la liberazione sono altri pareri, altri commenti. Ad esempio sul Corriere della Sera viene intervistato, c'è un'intervista all'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Il titolo è questo, Ciampi, bene, sì, una festa senza rancori, l'intervista di Marzio Breda. La domanda con cui esordisce il pezzo è questo, Presidente Ciampi, si torna a discutere del 25 aprile, ci si chiede se e come il governo onorerà la ricorrenza. Berlusconi non ha mai partecipato alle celebrazioni, tranne nel 2005, quando lei era capo dello Stato. Qualcuno disse che lo fece perché tutto si svolgeva al chiuso del palazzo, ma è stato solo il timore dei fischi a trattenerlo. La risposta di Ciampi è questa: vorrei davvero che fosse così semplice liquidare temi che rischiano di dividere ancora gli italiani. L'importante è che allora, invitato come sempre, il Premier sia venuto, e per sua scelta, senza pressioni o impulsi speciali da parte mia, che già da 3 anni avevo deciso di istituzionalizzare il ricordo della liberazione nella massima solennità, sul Colle appunto, per rivitalizzarlo, sottraendolo al ritualismo delle cerimonie itineranti. L'altra domanda: che cosa le pare di certe dichiarazioni polemiche, come quella del ministro La Russa, secondo il quale i partigiani rossi meritano rispetto ma non possono essere celebrati come portatori di libertà? Risponde Ciampi sul Corriere della Sera: la resistenza fu uno spontaneo moto di popolo e va sentita in una chiave allargata, senza alcuna pretesa di egemonia. Ci fu, ed è storicamente accettato, la resistenza dei nostri soldati a Cefalonia, nell'Egeo, in Corsica, nei Balcani, e poi quella dei nostri prigionieri nei lager tedeschi che rifiutarono di passare sotto le bandiere dell'ultimo fascismo. E ancora, dice Ciampi, quella della popolazione civile che aiutò profughi e fuggiaschi. Infine, punto avanzata e fondamentale, la resistenza delle formazioni partigiane, attive specialmente al nord. È molto utile sotto questo profilo un libro scritto da un comunista, Alessandro Natta. Vi si racconta ciò che accadde nei campi di concentramento, dove i più preparati, e lui era formato alla Normale di Pisa, si adoperarono in un'opera di alfabetizzazione democratica, una scuola della libertà che più tardi, nel 1947, pose le basi di un primo patriottismo costituzionale. Questo era Ciampi sul Corriere della Sera. Su Repubblica invece il commento al caso di Berlusconi, che va al 25 aprile, è affidato a Giorgio Bocca, un ex comandante partigiano. La resistenza non ha colore, questo è il titolo del suo commento, e scrive: Silvio Berlusconi, accogliendo l'invito del segretario PD Franceschini, parteciperà per la prima volta al 25 aprile. È una decisione che va giudicata positivamente, perché in essa, oltre a un diritto, si riconosce il dovere del Presidente del Consiglio di celebrare assieme a tutti gli italiani la festa della liberazione e i valori della resistenza, dell'antifascismo e della Costituzione. Ma quando aggiunge che lo farà, scrive Bocca, perché di questa festa non se ne appropri soltanto la sinistra, il Premier rivela di essere ancora lontano da un'autentica maturità democratica e storica. Più fallace di lui si è dimostrato il ministro della difesa Ignazio La Russa. E vediamo perché. La Russa, uno dei neofascisti sdoganati da Berlusconi, scrive Bocca su Repubblica, dichiara che i partigiani rossi meritano rispetto ma non possono essere celebrati come portatori di libertà, cioè tra i fondatori della democrazia italiana. È difficile capire su cosa si basi l'affermazione di La Russa, dato che il Partito Comunista Italiano, che organizzò e diresse i partigiani rossi, meglio noti come i Garibaldini, fece parte, e parte decisiva, dell'Assemblea Costituente da cui è nata la Repubblica Democratica. Che i comunisti italiani abbiano scelto la democrazia invece che la dittatura potrà sembrare ai loro avversari una scelta opportunistica, obbligata dai rapporti di forza in Europa e nel mondo, ma si prenda atto anche da chi avrebbe preferito un esito diverso che essa ci fu, e fu per i comunisti italiani vincolante, una scelta vincolante. Gli storici non hanno ancora fornito la prova di chi fu la responsabilità di questa scelta, se fu decisa da Stalin o dall'Internazionale Comunista, di cui l'italiano Palmiro Togliatti era un autorevole dirigente, ma l'accettazione da parte comunista della divisione del mondo in due sfere di influenza fu un dato di fatto accettato sin dagli anni della guerra di Spagna, riconfermato nell'incontro tra vincitori della guerra dopo, contro la Germania nazista, e rispettato anche dopo l'invasione sovietica dell'Inghilterra. E questo è il tema, diciamo, del 25 aprile. Un altro tema importante sui giornali di questa mattina è quello invece della crisi economica e di come se la passano imprese e lavoratori italiani, e del timore, diciamo, che nel mondo, dopo le ultime valutazioni del Fondo Monetario, ci sia una recrudescenza della crisi che certamente non finirà nel breve periodo. Sul Sole 24 Ore c'è un fondo di Martin Feldstein, che è un docente di Harvard, fu già presidente dei consulenti economici della Casa Bianca, il cui tema è questo: Mr. Obama e il virus chiamato inflazione. La scorsa settimana, per la prima volta da 55 anni a questa parte, gli Stati Uniti hanno mostrato segnali di deflazione, scatenando inevitabilmente timori di un accentuarsi della tendenza in futuro. Ma la ragione principale del tasso di inflazione negativo oltreoceano è il drastico calo, meno 30%, dei prezzi delle materie prime, un evento che non si ripeterà. Escludendo gli alimentari e l'energia, i prezzi al consumo sono saliti dell'1,8% rispetto a un anno fa. Queste sono le buone notizie. Le prospettive sul lungo termine sono più inquietanti, scrive Feldstein sul Sole 24 Ore. L'esplosione senza precedenti del deficit USA evoca lo spettro di un'inflazione galoppante in futuro. Secondo l'ufficio bilancio del Congresso, la finanziaria implica un deficit pari al 13% del PIL nel 2009 e quasi al 10% nel 2010. Anche in presenza di una forte ripresa economica, il debito pubblico raddoppierà nei prossimi 10 anni, arrivando all'80% del PIL. La storia ha ampiamente dimostrato il legame tra spesa facile e susseguente inflazione, ma la storia e l'analisi economica dimostrano anche che gli effetti inflazionistici possono essere evitati se il deficit non è accompagnato da un marcato incremento della massa monetaria e più in generale da un allentamento delle condizioni monetarie. L'elemento chiave è che l'inflazione aumenta quando la domanda supera l'offerta. Sul manifesto c'è un fondo di Galapagos invece, dal titolo emblematico, molto evocativo, Tutto va bene, e si parla naturalmente di crisi economica, delle previsioni del Fondo Monetario e dei redditi degli italiani. C'è sempre un fondo, scrive Galapagos, nei precipizi, qualunque sia la loro profondità, e affermare che la crisi economica è destinata prima o poi a terminare è una banalità. Meno banale è l'uso che si fa di queste affermazioni. Come ha sostenuto Guglielmo Epifani, il governo sparge ottimismo per nascondere le proprie responsabilità politiche di inazione nella gestione della crisi. Insomma, non fa nulla, promettendo che già nel secondo semestre dell'anno si avvierà la ripresa. Il primo ottimista è stato Tremonti, affermando che la crisi delle banche era risolta, ergo con la soluzione della crisi finanziaria si avvierà a soluzione anche quella dell'economia reale. Ma non la pensa così il Fondo Monetario Internazionale, che oltre a diffondere un paio di settimane fa cifre sconvolgenti sull'arretramento del PIL mondiale nel 2009, oltre il 4% in meno per l'Italia, in un rapporto presentato ieri ha fatto sapere che la crisi finanziaria costerà tantissimo ai governi, visto che stima in 4.000 miliardi di dollari la cifra necessaria per mettere una pezza alle follie finanziarie del sistema bancario. Di più, il Fondo Monetario sostiene anche che nell'importo reale degli asset tossici in circolazione, ne sappiamo ancora pochino, e i 4.000 miliardi di dollari potrebbero rivelarsi una somma inadeguata a coprire il buco. L'ottimismo di Tremonti ha fatto breccia nella Marcegaglia e altri imprenditori. Ieri il coro degli ottimisti si è aggregato il ministro Scajola. Il problema è che non aumentano i redditi dei lavoratori, visto che le masse vengono progressivamente emarginate. Una conferma è arrivata ieri da un'audizione parlamentare di Andrea Brandolini della Banca d'Italia, secondo cui, cifre alla mano, negli ultimi 15 anni gli operai e gli impiegati sono diventati più poveri, perché si sono verificati movimenti ridistributivi orizzontali che hanno modificato la posizione delle relative classi sociali. Questo era Galapagos sul manifesto. Oggi è il giorno della Terra, e si parla di inquinamento, di smog, di politica ambientale e di tutela dell'ambiente nel mondo. E ci sono alcuni articoli sui giornali di oggi, chi si dedica ai commenti e alle inchieste, altri cercano interviste di personaggi legati in qualche modo al mondo dell'ambiente. Su La Stampa c'è una pagina dedicata ad ambiente e salute, in cui il titolo principale è «La casa inquina più dello smog», ma proprio per il giorno della Terra c'è un'intervista a una modella, Giselle Bundchen, che dice «Milano da morire, il gran rifiuto di Giselle». Troppo smog per la modella, oggi si celebra la giornata della Terra. E dice l'articolo di Elena Lisa da Milano: «Amo Milano, ma l'inquinamento è diventato insopportabile. Ogni volta che ho dovuto frequentare questa città per via delle sfilate mi veniva una terribile allergia, il mio naso diventava una bolla e soffrivo. Forse ci sono troppe macchine». Parola di Giselle Bundchen, top model brasiliana affascinante ed ecologista. L'inquinamento, dice, deve essere combattuto e dovrebbe essere proibito a tutte le auto inquinanti di entrare in città. Modella al top anche per gli stipendi, più di 30 milioni di dollari, oltre 24 milioni di euro all'anno guadagnati sulle passerelle e posando per le più importanti riviste di moda. Nell'intervista al giornale brasiliano di Gossip Glamour, Giselle ha lasciato intendere di non voler più sfilare a Milano fino a quando l'inquinamento non sarà diminuito. Però pare da un articolo su La Repubblica, un articolo di Federico Rampini dalla Cina, dove abita a Pechino, dove fa il corrispondente, che la recessione abbia fatto un gran bene all'ambiente, perché sarebbe diminuito l'inquinamento, almeno in Cina. Scrive Rampini da Pechino: «Dopo 5 anni di vita a Pechino, una delle città più inquinate del pianeta, la mia sensazione di un calo nello smog poteva essere dovuta a una semplice assuefazione. ma un panel indipendente di esperti internazionali conferma quello che le narici di noi residenti avvertono da qualche tempo. Nella capitale cinese l'inquinamento atmosferico nell'ultimo trimestre è stato inferiore del 25% rispetto ai 7 anni precedenti. Lo scienziato Chuck Chan della Hong Kong University of Technology non ha dubbi, è grazie alla recessione. Per i fautori della decrescita è un trionfo della loro tesi, la migliore cura per l'ambiente è fermare lo sviluppo. Segnali simili si moltiplicano in ogni angolo del pianeta. In America, da New York a San Francisco, i pendolari costretti a risparmiare riscoprono in massa i mezzi pubblici meno inquinanti, metropolitane e treni. Le compagnie aeree a corto di passeggeri lasciano a terra molti apparecchi e disdicono i contratti di acquisto con Airbus e Boeing. Centinaia di navi portacontainer da Hong Kong, Yokohama, Seoul e Singapore sono ferme per il crollo del commercio mondiale. Anche lo smog del trasporto marittimo si riduce, scrive ancora Rampini su Repubblica. In Europa 150 città hanno aderito al movimento della Transition Town, che applicano una strategia sistematica per la riduzione dei consumi energetici. Il laboratorio più vasto per misurare l'impatto verde della crisi è la Repubblica Popolare, che 2 anni fa superò gli Stati Uniti per il volume di CO2 rilasciato nell'atmosfera. Non solo a Pechino, ma in tutta la Cina un effetto positivo della recessione è innegabile. Nella provincia meridionale del Guangdong hanno chiuso per bancarotta 62.400 imprese in un solo trimestre e quindi hanno smesso di rilasciare smog. La fine della bolla speculativa immobiliare ha bloccato l'apertura di nuovi cantieri per edificare grattacieli a Shanghai. Il consumo di elettricità è in calo per la prima volta da decenni. Tutte le cause dell'inquinamento sono in ritirata. Questa era l'analisi di Rampini da Pechino e adesso ci dedichiamo alla politica italiana, in particolare il tema del referendum o del finto referendum, come si arrabbia questa mattina il Riformista con un titolo in prima pagina e un fondo del direttore Polito, che scrive: il 21 giugno si celebrerà dunque uno dei referendum più finti della storia della Repubblica, questo è l'esordio. Finta è la data perché è stata scelta apposta per far fallire il quorum. Si voterà, è vero, insieme al secondo turno delle amministrative, ma le amministrative non si tengono in tutta Italia e non tutti gli elettori vanno al secondo turno. Finto è pure lo schieramento dei partiti. Il PDL vorrebbe battersi per il sì perché gli conviene come, ma non lo potrà fare apertamente sul serio per non finire ai ferri corti con la Lega. Il PD, che in cuor suo spera che il referendum fallisca, dovrà invece fingere di battersi per il sì, come ha deciso ieri la direzione del partito di Franceschini, per non irritare la lobby referendaria. Finto è pure il quesito che sembra arrivare da un'altra epoca, l'epoca in cui c'erano 25 partiti in Parlamento e bisognava ridurli a 5 o 6, ma ora sono già 5 o 6 e il referendum potrebbero solo trasformarli finalmente, fintamente, in 2, uniti alle elezioni nei listoni e poi di nuovo divisi subito dopo. Sul Riformista, questo era il commento di Antonio Polito, c'è anche una notizia politica: nasce la Formula Luca, e c'è una foto di Luca di Montezemolo con la Ferrari, un think tank per la politica. Il pezzo di Alessandro De Angelis e questa è la notizia. Montezemolo pensa davvero alla sua discesa in campo, ma l'operazione si giocherà sul lungo periodo. Per ora la partita è affidata al pensatoio Italia Futura. A guidarlo sarà Andrea Romano, che precisa: non è il partito di Montezemolo e nemmeno una fondazione. È un advocacy group, un luogo di ideazione civile rivolto alla discussione pubblica e promosso da un gruppo di intellettuali di diverse idee politiche. Nessun politico coinvolto per ora, molto intelligenza bipartisan, da Angelo Mellone a Vittorio Emanuele Parsi, da Marco Simoni a Carlo Calenda. Sul Foglio un altro pezzo politico fa un po' le pulci alle liste del PD per le prossime europee e alle difficoltà, diciamo, che ha il centro-sinistra in questa fase politica. Mondo cane, questo è il titolo. Cronache del PD, liste fatte con malumori, sia al referendum con dubbi, fronda giovane anche contro Santoro. Fassino capotreno e c'è un Veltroni a Berlino. Curiosi manifesti, intanto i piemontesi lavorano e litigano. Leggiamo una parte di questo articolo. Risolto il problema delle liste, meno quello del referendum, Dario Franceschini schiera il partito per il sì, il PD ha potuto riunire la sua direzione, convocata per varare appunto le liste dei candidati alle elezioni europee. Nonostante la lunga preparazione, qualcuno però ci è rimasto male lo stesso, a cominciare dai Giovani Democratici con la maiuscola, che ieri hanno detto chiaro e tondo, che quelle liste loro non le approvavano e non le votavano in direzione, si intende. Due giovani avevano proposto di metterci in lista e non ne hanno avuto neanche uno. Si capisce che poi perdano la pazienza, anche perché il sospetto è che nel PD ai Giovani Democratici con la maiuscola si preferiscano i Giovani Democratici con la minuscola. L'ultima segnalazione di questa mattina È una copertina, che è un'apertura di prima pagina che nessun giornale ha, è quello dedicato dall'Unità al Grande Fratello. Rom, reality e realtà, potevo vincere il Grande Fratello. Il racconto di Diana Pavlovic, che è un'attrice, una scrittrice, un assistente culturale. Volevano uno di noi, cioè un Rom, ci fecero il provino e ci scartarono. Non eravamo abbastanza zingari. E per oggi è tutto, grazie e buona giornata.